Vademecum legale contro gli abusi in divisa. Capitolo 2.4. Misure precautelari dell'avvocato Maria Bergamini. Che cosa sono le misure precautelari? Sono misure temporanee, coercitive, ossia che limitano la libertà personale del fermato o arrestato in situazioni di urgenza, disposte dalla polizia giudiziaria e che necessitano della convalida di un giudice. Permettono dunque alla forza pubblica di intervenire in caso di commissione di un presunto reato e dare corso ad un procedimento penale in un certo senso semplificato e sicuramente più rapido. La legge prevede tre misure precautelari: l'arresto, il fermo, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Quest'ultimo non verrà trattato poiché riguarda esclusivamente la commissione di alcuni reati di violenza contro la persona. Salvo l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, sia l'arresto e il fermo non si differenziano nelle modalità operative. In entrambi i casi le forze dell'ordine, in caso di eventuali commissioni di un reato, procederanno a fermare fisicamente la persona, chiedere le generalità e condurla coattivamente in commissariato in attesa della convalida da parte di un giudice, come meglio spiegheremo in seguito. In pratica, una volta avvenuto l'arresto, il soggetto fino al momento della convalida in tribunale viene tenuto ristretto o nella casa circondariale o mandamentale del luogo nel quale la misura è stata eseguita o nelle celle se presenti e disponibili all'interno delle questure e commissariati o, in via eccezionale, su disposizione del PM, nella propria abitazione o in altra privata dimora o in luogo di assistenza e di cura pubblico. Poi generalmente il mattino seguente, e comunque entro 48 ore, si viene condotti dalla polizia giudiziaria nelle celle del tribunale competente per territorio e per poi entrare nelle aule di udienza dove sarà presente il proprio avvocato e dove avverrà la convalida. L'arresto. La polizia giudiziaria deve procedere all'arresto di un individuo se viene colto nell'atto di commettere uno dei reati puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 e nel massimo a 20 anni e di uno dei reati specificatamente indicati nella norma, tra cui ad esempio la rapina o lo spaccio di sostanze stupefacenti. È dunque necessaria la flagranza o la cosiddetta quasi flagranza, e cioè che il soggetto venga colto nell'atto di commettere il reato o subito dopo la sua commissione, qualora venga inseguito dalla polizia, dalla vittima o da altre persone, anche se privati cittadini, o se è sorpreso con cose o tracce tali da far emergere la convinzione che abbia commesso il reato immediatamente prima. Un altro elemento necessario per permettere alla polizia di intervenire in tal senso è che l'azione che si ipotizza commessa, o l'attività che si ipotizza realizzata, rientri tra uno dei reati previsti dalla legge per procedere all'arresto. Vi sono però dei casi in cui la polizia giudiziaria procede. Arresto facoltativo. Se l'agente o l'ufficiale ritenga necessaria la misura della gravità del fatto o la pericolosità del soggetto, secondo una sua valutazione discrezionale. I reati per cui si può disporre l'arresto facoltativo sono meno gravi. Si deve trattare di reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, tra cui ad esempio violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o danneggiamento, cosiddetto aggravato, cioè se è avvenuto con violenza o minaccia alla persona o in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Arresto differito. Si tratta di un particolare tipo di arresto oggetto di un grande dibattito. In questo caso la polizia non interviene immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, oppure se si tratta di reati compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, come ad esempio le manifestazioni, ma procede entro 48 ore dal fatto, poiché sulla base di documentazione videografica emerge in modo evidente il fatto e se ne riesce a identificare l'autore. Devono dunque ricorrere sia ai requisiti di necessità e urgenza, sia alle stesse condizioni previste per l'arresto obbligatorio, come sopra specificate. Il fermo. L'altra misura precautelare disciplinata dal codice è il fermo, con il quale la polizia può fermare e condurre in commissariato una persona fino all'udienza di convalida da parte del giudice, se ricorrono queste condizioni. Gravi indizi a carico dell'indagato, presenza di specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga, poiché ad esempio vi è l'impossibilità di identificare il soggetto. Se si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e nel massimo a 6 anni. Possono procedere al fermo di regola il pubblico ministero, ma anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, se il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, oppure per motivi di urgenza non si può attendere la sua autorizzazione. È necessario specificare che il pubblico ministero, di seguito PM, è un magistrato appartenente dunque all'organo della magistratura e non a quello delle forze dell'ordine, con le quali ha comunque un rapporto molto stretto poiché ne indirizza le attività e ordina loro le indagini da svolgere. L'udienza di convalida. Trattandosi di misure limitative della libertà personale, il fermo e l'arresto possono essere confermati esclusivamente dopo un vaglio dell'autorità giudiziaria, come previsto dalla Carta Costituzionale, controllo che deve avvenire in tempi molto brevi per evitare una privazione immotivata di un diritto costituzionalmente garantito. Tale vaglio consiste nell'udienza di convalida. Il procedimento di convalida si sviluppa in tre fasi. 1. Una volta avvenuto l'arresto, il fermato o l'arrestato deve essere posto a disposizione del pubblico ministero. In questa fase è sugli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di seguito PG, che hanno proceduto all'arresto o al fermo, incombono dei precisi obblighi di informare il soggetto rispetto ai suoi diritti tramite una comunicazione scritta, che deve essere tradotta in una lingua a lui comprensibile nel caso in cui l'arrestato non conosca la lingua italiana. I diritti riconosciuti all'individuo arrestato e fermato sono: facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al gratuito patrocinio se si ha un reddito annuo disponibile risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad euro 11.483,92. Diritto di avere informazioni in merito ai motivi per i quali si è proceduto all'arresto o al fermo. Diritto all'interprete e al traduttore. Diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Diritto di poter visionare gli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo. Diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, diritto di usufruire dell'assistenza medica di urgenza, diritto di comparire di fronte al giudice per la convalida del fermo o dell'arresto entro 96 ore dallo stesso, diritto di essere interrogato dal giudice e di proporre ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida. Gli obblighi della polizia penitenziaria sono: informare immediatamente il PM di turno dell'avvenuto arresto o fermo, trasmettendogli l'informativa di reato, chiedendo di nominare un difensore d'ufficio laddove l'arrestato sia prima di un difensore di fiducia. Informare il difensore dell'avvenuto arresto o fermo. Dare notizie ai familiari, previo consenso dell'arrestato, dell'avvenuta applicazione della misura. Porre l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero entro e non oltre 24 ore. Trasmettere al pubblico ministero il verbale di arresto entro 24 ore. 2. Il pubblico ministero chiede la convalida al giudice. Una volta a disposizione del pubblico ministero, questi, laddove lo ritenga necessario, può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, avvisando preventivamente il difensore al diritto di partecipare. Il pubblico ministero può ordinare la liberazione, senza chiedere al giudice la convalida, quando appare evidente che il fermo o l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi consentiti dalla legge, ad esempio reati non gravi, e laddove la misura sia divenuta inefficace per decorrenza dei termini per porre l'arrestato a disposizione del PM o per chiedere la convalida del giudice. Altrimenti richiedere al giudice la convalida entro e non oltre 48 ore. 3. L'udienza di convalida davanti al giudice con applicazione di eventuale misura cautelare e rito direttissimo. Se il pubblico ministero ha richiesto la convalida al giudice, questi dovrà fissare la data dell'udienza di convalida nel più breve tempo possibile, e comunque entro le 48 ore successive alla richiesta del PM, informando sia il pubblico ministero titolare che l'avvocato. L'udienza si svolge in un'aula del tribunale. Possono partecipare esclusivamente l'arrestato, il suo difensore, obbligatoriamente, se manca l'avvocato se ne dovrà nominare necessariamente un altro, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo. Funzione del giudice è quella di verificare che la misura sia stata applicata rispettando tutte le condizioni e i termini previsti dalla procedura e gli obblighi elencati al punto 1, senza dover entrare nel merito della vicenda. Si tratta del vaglio giurisdizionale richiesto dalla nostra Costituzione che garantisce il rispetto dei diritti della persona in una fase così delicata come quella della privazione della libertà personale. Il giudice sarà monocratico, un solo giudice, o invece collegiale, tre giudici, a seconda della gravità del reato ipoteticamente commesso. Il giudice verifica che la polizia abbia dato comunicazione scritta contenente tutti i diritti di difesa dell'arrestato e in caso contrario provveda ad informare l'arrestato di tutti i suoi diritti. Successivamente il pubblico ministero, ovvero l'accusa nel giudizio, se presente e di norma lo è, espone i motivi dell'arresto o del fermo al giudice, poiché è lui stesso ad averne chiesto la convalida e a conoscere il relativo incartamento, e procede alle richieste in merito alla libertà personale, ovvero l'applicazione o meno di una misura cautelare. Il giudice procede all'interrogatorio dell'arrestato, che si divide in due parti. Nella prima parte egli è tenuto a rispondere secondo verità, altrimenti commetterebbe un reato, a domande riguardanti le proprie generalità, la composizione del suo nucleo familiare, l'occupazione lavorativa, i suoi redditi o proprietà. Nella seconda parte, invece, l'arrestato ha facoltà di non rispondere o di non dire il vero riguardo le circostanze che hanno causato l'arresto o il fermo. Una volta terminato l'interrogatorio, il giudice si ritira in camera di consiglio per decidere sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo, emettendo un'ordinanza. Egli deve verificare se la misura è stata legittimamente eseguita, ossia se sussistono i requisiti necessari e se sono stati osservati i termini perentori sopra indicati. A prescindere poi dalla convalida o meno, il giudice valuta se sussistono i presupposti per applicare o meno la misura cautelare, se richiesta dal pubblico ministero, e, nel caso, decide con un'ordinanza impugnabile presso il Tribunale delle Libertà. All'esito dell'udienza di convalida, dunque, l'arrestato può essere raggiunto da un'ordinanza di applicazione di una misura cautelare, a seconda se il giudice lo riterrà opportuno e ne ricorranno i requisiti, e a prescindere dalle richieste del PM. A seguito dell'arresto o del fermo, verrà iscritto un procedimento penale a carico del soggetto coinvolto, le cui celebrazione avviene o il giorno stesso dell'udienza di convalida o, in altri casi, nel giorno fissato dal giudice. Questo procedimento penale, se la misura è stata convalidata, non sarà ordinario, ovvero non si seguiranno le normali fasi del codice di procedura, indagini preliminari, eventuale udienza preliminare, dibattimento, ma sarà caratterizzato da una particolare celerità. Si tratta del cosiddetto giudizio direttissimo. Nel giudizio direttissimo, infatti, si salta la fase delle indagini preliminari e si arriva direttamente di fronte al giudice del dibattimento, che è lo stesso giudice che ha provveduto alla convalida del riarresto del fermo. L'imputato in questa fase, è così che si chiama la persona che è stata arrestata o fermata, una volta conclusa l'udienza di convalida, potrà chiedere di avere un termine dal giudice per preparare la propria difesa, non superiore a 10 giorni, o invece chiedere che si proceda con un altro giudizio, quale il rito abbreviato, il patteggiamento o la messa alla prova, che sono tutti i riti cosiddetti premiali, l'imputato potrà avere una riduzione di pena a fronte di una sorta di rinuncia al processo. Riparazione per ingiusta detenzione. In caso di ingiusta detenzione, la legge prevede la possibilità di risarcire se ricorrono determinate condizioni colui che l'ha subita. Si tratta di un'equa riparazione riconosciuta in favore di quei soggetti che sono stati detenuti a vario titolo ingiustamente, ma che ha avuto finora poco seguito. Vi hanno diritto sia i condannati definitivi, sia, grazie all'intervento della Corte Costituzionale, coloro che hanno subito la detenzione come custodia cautelare o addirittura pre-cautelare, in applicazione dunque di un fermo o dell'arresto. Il provvedimento dal quale emerge l'ingiustizia della detenzione deve consistere, a seconda della fase del procedimento penale in cui viene emesso, o in una sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, o in un provvedimento di archiviazione o in una sentenza di non luogo a procedere. Questa è la cosiddetta ingiustizia sostanziale, che può essere invocata solo laddove chi ha diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave, quindi non abbia in qualche modo contribuito a determinare l'errore giudiziario. Un'altra ingiustizia invece è quella cosiddetta formale, che si verifica quando con decisione irrevocabile di condanna o proscioglimento per qualsiasi causa risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dalla legge e precedentemente esposte. La domanda di riparazione deve essere proposta a pena di inammissibilità entro 2 anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile. La sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stato notificato il provvedimento di archiviazione. Il giudice competente è la Corte d'Appello, nel cui distretto è stato pronunciato il provvedimento che ha definito il procedimento, nel cui ambito è stata applicata la misura o comminata una pena. La legge prevede un tetto massimo per la riparazione di euro 516.456,90.